Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Abbiamo sentito vari colpi, ma non sappiamo esattamente dove è. Noi non possiamo neanche uscire a Marwene, è sotto il shock. Ok. Allora, mai come oggi la Somalia appare lontana, fragile, abbandonata a se stessa. Questa, quella che avete sentito è la drammatica testimonianza di un cittadino somalo che, sentite, parla italiano e vuole rimanere comunque anonimo per ragioni di sicurezza. Al Mawene è il quartiere, è un quartiere disperato, cinto d'assedio dagli insorgenti islamici, gli estremisti, gli Al-Shabaab. L'attentato di oggi ha fatto un numero imprecisato di vittime, il bilancio oscilla, si parla tra i 15 e i 40, adesso la cifra pare essere una trentina più, molti, molti feriti, almeno 50. Quanta sono arrivati all'ospedale Medina. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno gentili ascoltatori, buongiorno anche da parte di Valeria Coffaro e Fabio Cantadori. Allora, Somalia, vi riporto a Mogadiscio ancora la disperata voce che arriva dalla capitale somala. Si chiama Hotel Muna. Hotel Muna. Pronto? Sì, eccoci. È circa 2 chilometri, 1,5 chilometri dal mio ufficio. Abitavano circa 40-50 deputati. Sì, ho sentito che stamattina circa alle 9 sono entrati 10 persone, 7 persone armati che erano vestiti del vestito militare. Poi l'ultima notizia dice che loro hanno ucciso tutti i deputati, tutti ostaggi, e loro si sono uccisi. Questa è l'ultima notizia, ma non è sicura. Allora, la tattica utilizzata dai 2, forse 3, perché gli attentatori in realtà all'inizio si diceva fossero tra i 7 e i 10, poi pare che siano stati 3, di cui uno poi pare essere stato catturato. La tattica utilizzata è molto semplice: si indossano mimetiche, divise quelle dei militari del TFG, del fragile governo transitorio, e quindi si riesce in qualche modo a forzare i checkpoint e a entrare in questo hotel che ospitava una cinquantina di membri governativi, di parlamentari, che erano lì per seguire appunto i lavori politici. Uno era armato di pistola, uno era imbottito di esplosivo. Dopo i primi colpi di pistola del primo, il secondo, alla reazione dei militari presenti, si è fatto quindi esplodere. Cerchiamo ancora di capire meglio che cosa sta accadendo in queste concitate ore. Sentiamo la voce del maggiore Baoku, che è il portavoce della missione AMISOM, i berretti verdi dell'Unione Africana, che sono presenti a Mogadiscio. Questa mattina, circa un'ora fa, ci hanno attaccato 2 uomini. Uno aveva una pistola, mentre l'altro sembrava un kamikaze. L'uomo con la pistola ha aperto il fuoco sulla gente che era nell'albergo e allora il kamikaze si è fatto esplodere. Finora ci sarebbero 19 persone morte, ma stiamo ancora cercando di stabilire la loro identità. Ovviamente ci stiamo muovendo per portare soccorso a coloro che sono rimasti feriti nell'attentato e stiamo cercando di ristabilire la sicurezza, ma come sai Mogadiscio è una città complicata, non ci sono infrastrutture, non ci sono ospedali, ma cercheremo comunque di fare il possibile per aiutare la popolazione. Insomma, le truppe dell'Unione Africana fanno quello che possono. Ci siamo occupati di Somalia di recente, vi ricordo che al momento sono 6.000 i militari dell'Unione Africana presenti a Mogadiscio, un contingente che verrà rimpolpato da almeno altre 4.000 unità, la cosa dovrebbe venire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma la cosa non evita certamente questo genere di azioni che ormai Al-Shabaab mette in scena, non dico quotidianamente ma quasi. Attacchi kamikaze ormai si susseguono molto molto di frequente. Tra le persone morte vi sono 6 membri del Parlamento, 4 alti funzionari governativi. Questo l'avete sentito anche dal GR, lo ha detto il vice premier Abdirrahman Najib Adab Ibi nel corso di una conferenza stampa che è stata improvvisata, pensate, proprio nel luogo della strage. Quello che è chiaro, il quadro a Mogadiscio è un quadro disperato, dove il governo transitorio di Sheikh Sharif, che è riconosciuto dalla comunità internazionale, detiene però solo in minima parte il controllo della capitale. Villa Somalia, che è la sede del governo, questo hotel che era vicino al governo ma poi, come dire, come vedete, come sentite, non è in grado di garantire la sicurezza, e poi il porto e l'aeroporto che garantisce l'approvvigionamento e la logistica. Per far tutto ciò sono presenti le truppe del governo somalo e questi 6.000 uomini dell'Unione Africana. Chi ci segue ricorderà che noi abbiamo dato notizia di questo nuovo investimento italiano nella nostra ex colonia, 8 milioni di euro per il paese che il ministro degli esteri Franco Frattini ha destinato, e in più l'addestramento di almeno un migliaio di truppe da parte dei nostri carabinieri che dovrebbe avvenire nel vicino Kenya. Io vi faccio sentire ancora la voce di questo cittadino somalo che parla italiano. A noi le informazioni che abbiamo avuto erano di più, perché in due non possono fare nulla, perché la zona è abitata da molta gente. Adesso non si sente più sparare però, quindi gli scontri sono finiti? Non si sa ancora, perché noi non possiamo uscire dalla casa. E riesce a guardare dalla finestra se ci sono molte truppe del TFG che si spostano? La zona è tutto militarizzata, non c'è più veicoli, a piedi non puoi andare, solo il mercato puoi andare e basta. E la zona è molto circondata. E allora, in queste concitate ore, anche l'informazione locale cerca di raccontare quello che è accaduto, e ci sono i colleghi di Radio Chabelle che appunto sentiamo che cosa hanno detto alla popolazione somala. La Radio Chabelle dice che hanno ammazzato 40 deputati e loro si sono ammazzati. Questo dice Radio Chabelle. È per questo che non si capisce niente. Avete paura in questo momento? Molto. Cosa può succedere adesso? Dicono che vogliono fare la guerra per eliminare il governo Sharif e fare il governo musulmano di Al-Qaeda. Le truppe dell'Unione Africana dovrebbero essere aumentate da 6.000 a 10.000 uomini. Dicono così? Sì. Ora non hanno fatto nulla. Cioè le truppe AMISOM non sono efficaci sul terreno? No, non serve niente contingenti militari africani, servono quelli somali, bisogna pagare e istruire, così possiamo difendere, ma il mondo non vuole istruire i nostri, gli africani servono niente. Lei dice la crisi somala deve essere risolta dai somali, giusto? Sì, quelli che devono risolvere il problema, quelli che devono difendere e i militari somali. I militari somali hanno bisogno di istruzioni, i campi, e loro che devono difendere. E ci vendi. Oh, ma dove siamo? Perché gli africani ci difendono per la vita. E insomma, la Somalia e i somali, dare a loro gli strumenti per poter ristabilire l'ordine e voltare finalmente pagina dopo 20 anni di guerra civile, 20 anni di orrore, migliaia e migliaia di morti, milioni di profughi, la gente che scappa dalla capitale che ormai è dimezzata, i somali cercano di fuggire in Yemen e affrontano così il mare infestato dagli squali, fuggono nel vicino Kenya, dove poi sono bistrattati e trattati a pesci in faccia. Allora, voglio chiudere questa drammatica pagina facendovi risentire una voce, chi ci ha seguito forse se la ricorderà, si chiama Abukar. Era tutto bello quando c'è la pace, tutto è bello, l'aria, tutto è bello, il mangiare, andare a divertirsi, tutto è bello, non come ora che siamo in mezzo al fuoco. E allora Somalia, ma non solo, nella puntata di oggi di Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordo intanto le coordinate per interagire con noi, che sono 349-238-6666 per domande, commenti, suggestioni via SMS. Ci trovate la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano e poi potete mandarci una mail a nessunluogo@radio24.it. Adesso parliamo di Al-Qaeda per il Maghreb. Perché? Perché ieri l'organizzazione islamica terrorista ha rilasciato i due ostaggi spagnoli. Oggi cerchiamo, come dire, di capire meglio che cos'è Al-Qaeda per il Maghreb, chi la compone, che cosa vogliono. Lo facciamo con il professor Massimo Campanini, docente di storia contemporanea dei paesi arabi all'orientale di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. E lo facciamo con Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora, Al-Qaeda per il Maghreb, ieri Zapatero ha dato l'annuncio, sono stati liberati gli ostaggi spagnoli, ascoltiamo dalla sua viva voce la notizia. Albert Villalta e Roque Pascual están libres. Los dos cooperantes españoles secuestrados por Al-Qaeda del Maghreb han sido liberados tras permanecer 268 días en manos de sus secuestradores. Dal Mali alla Somalia, la nuova minaccia islamista in Africa, titolava alcuni giorni fa Le Monde, e diceva: Al-Qaeda e i gruppi affiliati stanno forse aprendo nuovi fronti nel continente nero. Una vicenda finita bene, quella dei due ostaggi spagnoli, l'avete sentita, e una tragicamente. Vi faccio sentire la voce di Nicolas Sarkozy. Plus que jamais, nous sommes décidés à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à soutenir les pays qui ont le courage de combattre ce terrorisme barbare. Ce combat nous concerne tous, il en va de notre sécurité. Mes chers compatriotes, le crime commis contre Michel Germano ne restera pas impuni. Michel Germano era invece l'anziano cooperante francese che è stato ucciso dai membri di Al-Qaeda nel Maghreb che lo tenevano prigioniero in risposta a un blitz effettuato dalle forze speciali francesi in collaborazione con quelle mauritane che credevano di aver individuato quella che doveva essere la prigione di Germano. Ebbene, hanno poi distrutto una base di militanti di Al-Qaeda, ma di Germano non c'era traccia e poi alcune ore dopo appunto è stato ucciso. Quanto fa paura Al-Qaeda nel Maghreb? Chi sono i suoi membri? Che cosa vogliono? Ascoltiamo insieme una scheda e poi di nuovo in studio con noi. È l'Africa la nuova frontiera dell'estremismo islamico, dove l'attività terroristica ha avuto un'escalation dopo il rafforzamento di un agguerrito gruppo di origine algerina. Al-Qaeda nel Maghreb islamico è il nome dell'organizzazione jihadista maghrebina balzata al centro dell'attenzione internazionale per numerosi attacchi terroristici e rapimenti, tra cui quello di due operatori umanitari spagnoli rilasciati ieri. Al-Qaeda nel Maghreb costituisce un'evoluzione del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, un movimento islamico di resistenza armata che nasce all'epoca della guerra civile algerina negli anni 90. Nel 2006 il gruppo dichiara la sua intenzione di unirsi alla lotta di Al-Qaeda contro l'Occidente e l'anno successivo assume il nome di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, a sottolineare la nuova alleanza. Così, se l'obiettivo dell'organizzazione era inizialmente quello di ribaltare il governo militare algerino e instaurare una teocrazia basata sulla legge islamica, oggi Al-Qaeda nel Maghreb lotta contro l'Occidente preparando attentati, facendo rapimenti, reclutando e addestrando jihadisti. Il pericolo è una globalizzazione del conflitto e una diffusione dell'organizzazione negli altri paesi africani. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. Nessun luogo lontano, siamo partiti dalla Somalia. Adesso proviamo a ragionare su quella che è una minaccia che si fa sempre più concreta. Si chiama Al-Qaeda nel Maghreb. Lo faccio con i miei ospiti, non prima di aver citato un paio di sms. Nicola da Verona: la prima destabilizzazione della Somalia, dalla quale dipende l'attuale situazione, è stata causata dall'invasione e occupazione italiana. Abbiamo una grave responsabilità storica. Io direi che la responsabilità storica è di tutta la comunità internazionale, che solo recentemente è stata, come dire, costretta a occuparsi della Somalia, perché il numero di morti è incredibile, perché la situazione è tragica e quindi, comunque, nel bene o nel male si tenta di occuparsi di Somalia. Colonna sonora di Black Hawk Down fa presente Luca da Milano, un film che presenta bene la Somalia anni 90. Sì, la presenta bene, un film incredibilmente, fortissimamente icastico, è vivace, forte e sanguinario, ma rende veramente bene quello che è il caos tragico di Mogadiscio, in cui non c'è un posto sicuro, in cui non puoi rifugiarti da nessuna parte perché c'è guerra ovunque. E poi un altro messaggio che spero di interpretare bene dice: voi giornalisti parlate solo dei palestinesi e poi i pacifisti non parlano mai di Mogadiscio. Io non sono un pacifista, sono un giornalista, sto parlando di Mogadiscio, spero di in qualche modo di saziare la sete di curiosità di qualcuno. Ma torniamo ad Al-Qaeda nel Maghreb, che in qualche modo è legata ad Al-Shabaab, perché almeno concettualmente Al-Shabaab è una formazione estremista islamica che si dichiaratamente oramai si rifà ad Al-Qaeda. Al-Qaeda nel Maghreb è un'altra formazione che, pur composita al suo interno, comunque si appoggia all'ideologia e alla, come dire, anche alla retorica dell'Al-Qaeda, quella maggiore di Osama Bin Laden. E Al-Qaeda nel Maghreb occupa in maniera incredibilmente efficace un territorio veramente gigantesco. Allora, buongiorno ancora al professor Campanini, partiamo da lei, telegraficamente, se riusciamo. Quali sono gli ingredienti, se li troviamo, che permettono al radicalismo islamico armato di attecchire in paesi come la Somalia, come la Mauritania, come il Mali? Ma innanzitutto io distinguerei il caso della Somalia rispetto agli altri casi del Maghreb, sì, e dei paesi del Maghreb, perché la funzione degli Shabab quando sono comparsi in Somalia è stata anche quella, per esempio, di garantire un equilibrio all'interno di un paese devastato dalle guerre civili e dallo scontro dei signori della guerra. E questo è stato un motivo per cui gli Shabab hanno avuto un certo seguito all'interno della Somalia e sono stati poi eliminati fondamentalmente dall'intervento di potenze straniere. Quindi questo deve essere anche tenuto presente. Sì, diciamo, quello più forse le corti islamiche, perché in realtà, insomma, al-Shabaab, come dire, dire che abbia un supporto alla popolazione, secondo me, è una forzatura. Le corti islamiche, sono d'accordo con lei, che garantirono almeno un 6 mesi di relativa stabilità al paese. Però è vero che è vero che la Somalia, come dire, è un caso a sé stante, anche perché al-Shabaab, in qualche modo, un progetto politico ce l'ha. Dice, rovesciamo il governo transitorio di Sheikh Sharif e facciamo uno Stato islamico come diciamo noi, con la Sharia applicata come diciamo noi. La Sharia applicata, come dice al-Shabaab, vuol dire donne velate, vuol dire che non si può ascoltare la musica, gli uomini devono portare la barba, aboliti i telefonini e mille altre cose. Veniamo invece, professore, a quelli che sono gli ingredienti che permettono all'altra, al-Qaeda, quella del Maghreb, di attecchire in paesi così distanti poi fra loro, dal Chad, al Niger, all'Algeria, alla Mauritania. Ma io anche qui andrei un po' controcorrente, cioè una cosa che secondo me anche in riferimento alla scheda che avete fatto, sono da rilevare secondo me 3 cose. Innanzitutto il fatto che la realtà di Al-Qaeda è una realtà poliforme e per cui non si può ridurre la realtà di Al-Qaeda in Africa a quella dell'Asia, cioè sì, la presenza di Al-Qaeda in Afghanistan piuttosto che in Iraq non ha lo stesso significato e la stessa portata della presenza di Al-Qaeda nei paesi del Maghreb. Sì. In secondo luogo, secondo me bisogna rendersi conto del fatto che la presenza di Al-Qaeda nei paesi del Maghreb è, secondo la mia opinione, attualmente una presenza marginale e questo dipende dal fatto che queste frange di fondamentalismo armato sono nel Maghreb, da sì, una parte fermate dalla legittimità religiosa di monarchie tipo quella marocchina, dall'altra dal fatto che esistono dei paesi, sempre per esempio il caso del Marocco, dei partiti di orientamento islamico che costituiscono dei freni e obiettivamente degli ostacoli alla diffusione di movimenti armati, anche perché finora l'attecchimento che Al-Qaeda ha avuto è stato soprattutto in quelle circostanze, in quei luoghi dove c'era disastro politico, cioè sì, dove non funzionavano le istituzioni, sì, dove c'era una situazione magari di povertà e di difficoltà sociale ed economica, cosa che per esempio un paese come la Tunisia non ha, sì, e in effetti da questo punto di vista, a parte il regime tipicamente militaresco e poliziesco che vige in Tunisia, la Tunisia è stata soltanto sfiorata da questi fenomeni. Cioè lei dice che, professore la interrompo, lei dice che gli anticorpi sono fondamentalmente la democrazia e sono l'avere dentro questa democrazia dei partiti islamici che in qualche modo fanno da camera di compensazione per quelli che possono essere dei rigurgiti estremisti, quindi invece inglobano anche le istanze un po' più, come dire, estremiste o un po' più violente? Sono del parere che ci sia una rappresentanza politica, tra virgolette, moderata dell'islamismo contemporaneo e laddove, per esempio, in paesi come la Giordania, che non c'entra col Maghreb, però è sempre un paese arabo, esistono questi contrappesi, come li chiama lei, di tipo politico, c'è la possibilità di creare degli anticorpi che possano condurre a un freno dell'espansione qaidista in queste zone del Nord Africa. Grazie allora, professor Campanini, per il suo apporto, la sua testimonianza. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Andrea Nativi. Olivi, ti chiedo di pazientare perché nel frattempo ci ha raggiunti Stefano D'Ambroso, magistrato esperto di terrorismo internazionale, rappresentante italiano al Comitato di Esperti di Terrorismo al Consiglio d'Europa. Dottor D'Ambroso, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, noi ci stiamo occupando quest'oggi di Al-Qaeda nel Maghreb che, come dire, nelle parole di Sarkozy è una chiara minaccia diretta, insomma, anche all'Europa. Lei cosa ne pensa? Beh, diciamo che dipende dai punti di vista dei paesi europei che insomma hanno una minaccia o hanno un problema serio già all'interno del proprio paese. Ecco, la Francia è uno di quei paesi molto diversi dall'Italia dove una emigrazione già risalente e già radicatasi da tempo, anche con seconde o addirittura terze generazioni, possono trovare proprio nella sponda maghrebina dei nuovi input di tipo appunto aggressivo da realizzare proprio in Francia, ma per sfogare istanze che sono tipiche del disagio, diciamo in senso lato, che già la Francia ha conosciuto con gli episodi noti al mondo intero, con le rivolte all'interno delle banlieue parigine e degli intorni di Parigi. Quindi il fondamentalismo religioso nella vicenda francese rimane tradizionalmente un problema per la grande emigrazione che vi è stata con un radicamento oramai già da tempo basatosi in quel territorio e che può riaccendersi di volta in volta a seconda dei focolai di fondamentalismo collegati proprio alle famiglie, ai gruppi etnici stabiliti in questo caso in Francia, ma per l'Inghilterra vale un discorso analogo e per la Germania con altre caratteristiche vale un discorso analogo. Noi ancora non abbiamo come paese, l'Italia non ha un consolidamento della emigrazione così radicale che questi altri paesi hanno conosciuto. Dottor D'Ambroso, in realtà non mi è chiaro il collegamento che lei fa tra, come dire, la rivolta delle banlieue, comunque il disagio, no, delle periferie parigine e comunque insomma il radicalismo islamico africano. Cioè lei dice comunque lì nelle banlieue ci sono immigrati seconda e terza generazione che hanno un collegamento col Maghreb? Ma in una maniera, visto che se ne sta parlando in termini di analisi, sicuramente la preoccupazione, la domanda era legata alla preoccupazione di Sarkozy, espressa da Sarkozy. Sì. Sarkozy è preoccupato perché vi è un collegamento di natura etnica fra dei gruppi appunto basati oramai in Francia da tempo e varie aree del Maghreb, non nello specifico Al-Qaeda nel Maghreb così come sta cercando di analizzare la trasmissione di oggi, ma sicuramente con problemi provenienti da quell'area. L'Algeria è il paese tipico da cui la Francia si è dovuta tra virgolette comunque difendere in termini di rischio minaccia di matrice terroristica sin dal 1995. Dottor D'Ambroso, noi abbiamo tenuto distinto Al-Shabaab, Al-Qaeda e Al-Qaeda nel Maghreb. Per la sua esperienza, per i suoi studi, per il suo lavoro, quanto Al-Qaeda nel Maghreb è affiliata, quanto si appoggia, quanto diciamo il gioco delle due organizzazioni è legittimarsi vicendevolmente e quanto invece è disgregata al suo interno, cioè è una cosa unica Al-Qaeda nel Maghreb che si rifà ad Al-Qaeda? Ma sicuramente Al-Qaeda nel Maghreb si rifà ad Al-Qaeda, evidentemente, anche in termini squisitamente letterari e nominalistici. È utile per un'organizzazione di quel genere usufruire e sfruttare la denominazione di un'associazione che invece è stata conosciuta da tutto il mondo con i fatti dell'11 settembre. Quindi questo sicuramente c'è come collegamento. Non direi però assolutamente che è una cosa unica. C'è un'ideologia che è assolutamente reciproca e quindi può essere utilizzata moltissimo la stessa ideologia sia dall'una che dall'altra organizzazione, però escluderei che si tratti di una struttura con capi che cooperino continuativamente, che abbiano una strategia comune, che abbiano una pianificazione della loro attività davvero comune. Quindi ci troviamo di fronte a realtà sostanzialmente diverse e che sono accomunate da un'ideologia che invece è assolutamente simile. Dottor D'Ambrosio, io la ringrazio. Siccome il traffico incombe, le chiedo una risposta telegrafica. Sarà l'Africa la nuova frontiera per la lotta ad Al-Qaeda? Per quello che intendiamo noi di essere Al-Qaeda, per cui il radicalismo islamico, sicuramente sì. Grazie. Allora, dottor D'Ambrosio, una buona giornata, un buon lavoro. Nessun luogo è lontano. Al-Qaeda nel Maghreb, oggi a nessun luogo è lontano, stiamo cercando di capire che organizzazione è, chi la compone, che cosa vogliono. Vi ricordo che le recenti serie di attacchi sono stati dei blitz estremamente efficaci a partire dal 2007, molteplici attacchi si sono susseguiti ad Algeri e poi in Mauritania, tanto che la famosa Parigi-Dakar è stata spostata, non è stata più possibile svolgere la corsa lì per motivi di sicurezza, e poi l'inizio dei rapimenti, di cui poi fu oggetto anche Sergio Cicale, l'italiano, più la moglie, e poi ancora il francese Germano, e infine i due spagnoli che poi, per fortuna abbiamo sentito, sono stati liberati. Quindi stiamo parlando di gruppi organizzati, ben armati, che si muovono molto efficacemente su un territorio molto difficile. Cerchiamo di capirne qualcosa in più con Andrea Nativi. Eccoci Andrea. Allora, quanti sono i componenti di Al-Qaeda del Maghreb? Beh, domanda da più di $1 milioni, direi che precisamente non lo sa nessuno, sono relativamente pochi, ha detto giusto il professor Campanini, sono pochi, però sono pericolosi perché operano in un terreno dove la sicurezza è molto molto limitata, le capacità di controllo delle forze di sicurezza sono minime, e aggiungiamo poi che non hanno neanche una possibilità di monitoraggio di un territorio immenso, quindi sono pochi, non parliamo di migliaia, parliamo più di centinaia che riescono a mettere quasi in scacco le polizie e gli eserciti di parecchi paesi: Mauritania, Mali, Algeria, Niger, Chad, in parte forse il sud della Libia, in parte forse il sud del Marocco. Come si sconfigge Al-Qaeda nel Maghreb? Come si fa ad andare a caccia di gruppetti organizzati di 10-15 che viaggiano su veloci pick-up, che hanno i GPS, hanno i satellitari, hanno mitra pesanti? Come si fa? Si fa che intanto la prima risposta, da un punto di vista che noi parliamo solo della sicurezza, Campanini ha parlato dell'aspetto politico, ma la parte di sicurezza è intanto bisogna aiutare le forze di sicurezza locali, e questo lo stanno facendo un po' tutti, dall'Unione Europea, gli Stati Uniti e poi singoli paesi come la Francia, un po' anche la Spagna, che hanno gli interessi locali. Poi magari se si disinnescassero questioni come quella del Sahel e del suo futuro, si eviterebbe un brodo di cultura molto utile. E poi ancora gli si deve fornire quegli strumenti ai governi che non sono in grado di utilizzare da soli, dai satelliti ai sistemi di sorveglianza, agli UAV, lo sfruttamento dell'intelligence che noi abbiamo e loro non hanno, l'addestramento del personale, le comunicazioni che sono cruciali. Su tutti questi aspetti però si sta lavorando e qualche risultato è stato ottenuto. Sì. Dunque, io personalmente ho potuto, come dire, tastare con mano quella che è l'efficacia degli eserciti africani, di alcuni eserciti africani, in effetti, come dire, non sono modelli esemplari, no, di rigore, di disciplina, sono dei grandissimi guerrieri, dei grandi combattenti, però insomma, quando si tratta, no, di fare uno, due, tre, insomma, c'è qualche problema. In questo senso gli americani sono scesi in campo con pochi uomini, ma fanno operazioni molto mirate. Ci spieghi meglio, Andrea? Sì, beh, per gli americani l'Africa è il nuovo fronte, quindi hanno creato un comando ad hoc che si chiama AFRICOM, che ha la sede principale in Germania, ma due delle sedi operative sono in Italia, anche perché non hanno trovato un paese africano che li ospitasse, perché poi ci sono mucchi di problemi interni che non possono consentire agli americani una presenza troppo visibile in Africa, però operano con le operazioni speciali, con i reparti dell'esercito, danno proprio a questi eserciti scassati, diciamo così, quello che serve, ovvero sia logistica, intelligence, trasporto, supporto, addestramento, e lo fanno da pari a pari, ovvero sia tipo le forze speciali addestrano le forze speciali, l'esercito, poi c'è tutte le attività sul mare, perché anche lì è un colabrodo, si sta facendo. Certo che le richieste e le esigenze sono immense, i soldi a disposizione non tanti e gli uomini ancora meno, contando che gli Stati Uniti ad esempio hanno ancora due guerre in corso. Però se si esce dal pantano iracheno e si diminuisce prima o poi l'impegno afghano, ci saranno anche queste. Che cosa, se, rifaccio la domanda che poi ho fatto insomma al dottor D'Ambrosio, secondo te è una minaccia diretta anche per l'Italia, cioè la porosità anche di certe frontiere, di certi confini? Io penso innanzitutto, ne parliamo spesso in questo programma, a Ceuta e Melilla, no? Che sono le due enclave spagnole che hanno un confine estremamente poroso, e da lì non è difficilissimo muoversi in Europa. Ci fu poi un allarme proprio per possibili infiltrazioni di Al-Qaeda da Ceuta e Melilla. Tu dal punto di vista proprio strategico, militare, lo vedi una minaccia anche diretta per il nostro paese? Ma diciamo che è chiaro che come rotta di infiltrazione sì, perché no, ma anche dalla Libia, passando dal Sudan, anche lì passa di tutto. Infatti noi abbiamo grandi programmi di collaborazione per il monitoraggio confini e sicurezza fatto con i governi locali. Ovviamente non c'è il problema della destabilizzazione, che invece per i governi locali c'è. E se proprio uno vuole essere pessimista, perché Campanini chiaramente non ha detto che non hanno le capacità di rovesciare un governo, però sì, possono creare grossi problemi se non vengono rintuzzati. Li stiamo rintuzzando, certo che da questi confini porosi non solo può passare qualcuno, può passare di tutto e di più e passa. Certamente un governo che hanno, come dire, toccato duramente, che è ancora sofferente, è quello di Bouteflika, perché l'Algeria, data anche poi l'origine, no, come dire, di questo movimento del Qaeda del Maghreb, che nasce fondamentalmente dal movimento islamico estremista algerino, come dire, gliel'hanno suonate, perché negli ultimi anni gli attentati non si sono contati. Da questo punto di vista vedi delle zone più sensibili, più deboli? Cioè dov'è che secondo te, come dire, si potrebbero annidare maggiormente, si potrebbero nascondere o potrebbero colpire più efficacemente? Guarda, parlando proprio di Algeria, direi che basta vedere quali che sono le richieste che l'Algeria fa ai partner internazionali. Tra l'altro noi siamo come Italia partner dell'Algeria proprio per la sicurezza, gli dovremmo realizzare un sistema per la gendarmeria, per il controllo dei confini e lo scambio di informazioni, la sorveglianza elettronica e l'intervento. Ecco, tutte le zone di questi immensi confini che non possono essere sorvegliati, dove non c'è presenza della sicurezza, non c'è presenza dello Stato, delle forze armate, capacità di monitoraggio, e dove c'è un tessuto economico e etnico che favorisce l'ingresso di Al-Qaeda, ecco, lì ci sono i problemi. È responsabilità dell'Occidente, se si vuole difendere in casa altrui, che è sempre una buona cosa, aiutare anche i governi che usano il pugno di ferro, come quello algerino, a risolversi questi problemi che hanno. E direi che in questo un po' tutti lo stanno facendo, con discrezione, compresa l'Italia. Insomma, Andrea, prova a sintetizzare. Governi magari magari fragili, territori particolarmente inospitali, difficili, assenza di tecnologia, quindi impossibilità a monitorare, rendono tutta la parte del Sahara e del Sahel un gigantesco possibile potenziale campo di addestramento e di attività per poche centinaia di... Per ora poche centinaia, che però insomma si possono organizzare, possono colpire e pianificare le loro azioni. Corretto? Corretto, è proprio così. Bisogna quindi tenere alta la guardia, e poi non fermiamoci ai nomi, si chiamano Al-Qaeda, ma questo è più che altro marketing, sono organizzazioni del tutto indipendenti. Grazie allora Andrea Nativi per il tuo contributo, grazie e buona giornata. A voi, buon lavoro. E allora 13:54, 55 in questo istante, cambiamo ancora pagina, vi porto a Istanbul con Marta Ottaviani, buongiorno Marta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vi porto in Turchia perché c'è stata una dichiarazione, una difesa di Erdogan, il premier turco, perché gli è stata lanciata un'accusa ben precisa, che è quella di dialogare, tra virgolette, con i curdi in vista del referendum del 12 settembre. Che cosa sta succedendo, Marta? sì, è una campagna elettorale, una campagna referendaria che si sta svolgendo senza esclusione di colpi tra Erdogan e l'opposizione. Vorrei ricordare che il 12 settembre a referendum andrà appunto la modifica di una parte della Costituzione a cui Erdogan tiene particolarmente, perché indebolirà notevolmente i militari che tanta parte hanno avuto nella storia del paese. Appunto, scambio di accuse anche molto violento, alla fine Erdogan è anche stato accusato dall'opposizione di aver barattato, diciamo, una trattativa di KK in cambio dei voti favorevoli del partito curdo, dei votanti appunto curdi, al referendum del 12 settembre. Un'accusa altamente infamante, dalla quale appunto, contro la quale Erdogan ha cercato di difendersi, ma sulla quale pesano dei dubbi. Di settimana scorsa, infatti, la notizia che il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, che lotta per la creazione di uno Stato indipendente curdo in territorio turco, ha dichiarato una tregua unilaterale fino al giorno del voto. È una cosa molto strana, perché il PKK precedentemente aveva annunciato che avrebbe anzi intensificato gli attacchi per rendere il clima politico ancora più nervoso e in previsione appunto della giornata referendaria. Sì. Erdogan ha appunto replicato alle accuse, chiedendo all'opposizione di portare dei documenti concreti che dimostrino appunto quanto detto. Certo. E che se il PKK ha voluto interrompere le azioni di violenza è perché non era riuscito ad ottenere alcun risultato. È un clima politico molto teso quello che ci accompagna verso il 12 settembre. I partiti si stanno muovendo molte accuse l'uno con l'altro, accuse spesso anche sul piano personale, non solo appunto sul piano dell'arena politica. E appunto il 12 settembre si voterà. Erdogan per il momento rimane nell'occhio del ciclone, e appunto c'è comunque una parte d'opposizione che sta andando avanti con questa accusa, dicendo che in effetti ci sono delle cose che non tornano nel rapporto, diciamo, tra la maggioranza e l'organizzazione separatista. Grazie. Allora, Marta Ottaviani, per la tua corrispondenza. Insomma, Erdogan che parla con i curdi, insomma, sarebbe una novità. Grazie Marta, buona giornata e buon lavoro. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E abbiamo il tempo di far ruotare il mappamondo e andare sempre in Turchia, perché è notizia di qualche ora fa l'aumento delle commesse militari. Mentre i programmi di spesa dei paesi occidentali in genere per gli armamenti tendono a essere ridimensionati, in Turchia si assiste al fenomeno opposto, con un sensibile incremento delle commesse militari. Nel 2010 16 miliardi di dollari, circa l'1.8% del PIL. Sconti tra esercito e terroristi, 4 morti Al-Qaeda, Aden. 4 membri di Al-Qaeda sono rimasti uccisi nei combattimenti con l'esercito yemenita a Loder, nel sud dello Yemen. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno yemenita. E beh, anche lo Yemen è un'altra frontiera calda per la lotta al terrorismo. In chiusura vi segnalo sul Time di questa settimana un servizio fotografico impressionante a cura di Adam Ferguson, che è un fotografo che lavora per il Time in Afghanistan. Si chiama The Pity of War, insomma parla di quello che si chiama, insomma, il fuoco involontario, e quindi, insomma, durante uno scambio di colpi con i talebani un villaggio viene colpito, il fotografo era lì e testimonia con durezza quella che è l'atrocità della guerra. 13.59 in questo istante, un saluto da Giampaolo Musumeci, Valeria Coffaro, Fabio Cantadori. Noi ci risentiamo domani 13.15, ricordate che nessun luogo è lontano.